Innanzitutto non lo chiamiamo più Gay Pride da molti anni, si chiama Pride, è il Pride delle soggettività LGBTQI+, e comunque anche di tutte e tutti gli alleati che vogliono partecipare. Sfondiamo i muri vuol dire proprio sfondiamo i muri dell'oppressione, sfondiamo i muri del silenzio, sfondiamo i muri della violenza di genere, sfondiamo i muri della precarietà, e sono tutte quelle parti della nostra vita che sono intrecciate e con le quali combattiamo, no? Perché è un periodo di grande difficoltà, di grande sofferenza per tutte le persone, e sicuramente noi soggettività LGBT, noi gruppi, associazioni che formiamo il comitato Pride, lavoriamo quotidianamente su questi temi, e il giorno del Pride è proprio la giornata di punta, no? È la giornata che arriva per dire dopo un anno noi siamo qui a dirvi che tutti i giorni lottiamo, e questo è il giorno in cui ci prendiamo lo spazio, attraversiamo le strade della città e lo spazio lo viviamo e lo gestiamo noi. Avete preparato un documento politico in vista di questo Pride che affronta tematiche nazionali, insomma criticando alcuni esponenti del governo, ma anche tematiche locali, ad esempio l'hub di Via Mattei. Il nostro ovviamente è un documento politico che è proprio inserito all'interno del tessuto cittadino, nel tessuto locale, perché noi siamo un Pride cittadino e ci inseriamo poi all'interno dell'onda Pride che sta attraversando tutta l'Italia, e abbiamo voluto proprio affondare in quelle che sono i temi più caldi del presente, tra cui appunto lo sgombero dell'hub di Via Mattei, con la deportazione dei migranti in altri luoghi di accoglienza, e soprattutto poi con la messa in precarietà delle persone che lavorano all'interno di quella struttura. Cerchiamo sempre di allearci e di trovare delle lotte in cui poterci riconoscere, perché siamo tutte delle soggettività ai margini, soggettività costantemente oppresse, come diceva giustamente Carla, e vogliamo appunto costruire delle reti di sostegno, di attenzione all'altro, di cura all'altra persona. Quindi per noi è un documento estremamente politico, che poi rivendica anche delle leggi a livello nazionale e a livello locale. Appunto, noi rivendichiamo nel documento politico anche la legge regionale, che al momento è in discussione in regione, un po' impantanata, diciamo così, che è una legge che in realtà andrebbe a tutelarci non tanto sanzionando, perché appunto lavora su un piano regionale e non nazionale, ma invece costruendo e promuovendo dei percorsi di educazione alle differenze, di formazione all'interno di tutti quegli spazi che noi come soggettività LGBTQI+, e non solo, attraversiamo quotidianamente. Dalla scuola, dagli spazi della salute, dagli spazi lavorativi. A noi serve quella legge, serve essere tutelati in quel senso, perché solo lavorando sui contesti, sulla cultura, noi possiamo veramente vivere le nostre vite, le nostre esistenze, resistendo insieme. Proprio riguardo alla parte politica, ci sarà una parte del corteo che sfilerà in modo indipendente. Come mai, e che cosa ne pensate, insomma, della decisione di alcuni di voi, appunto, di sfilare da soli? Non nessuno sfila da solo o da sola, siamo tutti insieme, il Pride è grande, il Pride è di tutti. C'è, diciamo, uno spezzone autonomo, nel senso che hanno ritenuto alcune, diciamo, associazioni, tra cui per esempio il MIT o Plus, che comunque sono associazioni, diciamo, istituzionalizzate tanto quanto le nostre, e però anche dei collettivi e dei gruppi, di fare questa parte di corteo, che però diciamo segue il nostro corteo, quindi siamo tutti assieme. Non è un contro Pride, il Pride è quello, è uno, il Pride è di tutti, e comunque il comitato Pride, che è composto da oltre 20 associazioni tra fondatrici e aderenti, oltre a tante adesioni che ci sono e che ci arrivano tutti gli anni, è un comitato aperto che lavora in maniera, diciamo, trasparente, con delle chiamate pubbliche, perché noi diciamo in autunno cominciamo appunto con incontri, chiamate pubbliche, assemblee pubbliche. Quest'anno inoltre, anche se verso la fine del percorso, abbiamo cominciato anche a lavorare sempre in maniera pubblica e aperta su dei tavoli tematici specifici, proprio perché il lavoro che noi svolgiamo sempre da anni è quello di costruire delle relazioni positive intorno a certe tematiche che, come dicevamo, si intrecciano, perché il nostro è anche, diciamo, un Pride intersezionale, un Pride femminista. E poi una cosa ci tengo a dire, e voglio fare una citazione di una persona molto importante per tutto il movimento LGBTQI italiano, cioè Franco Grillini, che dice che la rivoluzione delle soggettività LGBTQI è una rivoluzione gentile, ed è una rivoluzione non violenta, ed è quella che ha sempre portato nelle strade, anche nei momenti diciamo critici, le istanze di lotta importanti anche per la cittadinanza, per esempio se parliamo dei Pride cittadini, ma dove non c'è mai stata un'azione che non fosse non violenta. In questo clima culturale, con questo governo, temete un ritorno al passato di certi diritti, dal vostro punto di vista, ampiamente acquisiti ormai da anni? I diritti sono acquisiti fino a quando non te li tolgono. Quindi noi in questo momento ci sentiamo costantemente attaccati. Quindi da quel punto di vista ovviamente noi rivendichiamo ancora le nostre esistenze anche per questo motivo. Ovviamente ne rivendichiamo anche altri diritti. C'è un ritorno sicuramente a un clima fascista, tuttavia noi siamo fiduciose perché costruendo delle alleanze, incontrandoci, condividendo le lotte, siamo certe che possiamo resistere assieme, possiamo sfondare i muri della discriminazione, dell'oppressione, del patriarcato assieme. Sarà più dura, è sempre stata una lotta dura, sempre stata una lotta dura da 50 anni a questa parte, da Stonewall, che quest'anno noi ricordiamo, però come ci hanno insegnato Sylvia Rivera e Marsha P. Johnson, solo lottando assieme, solo non lasciando nessuna indietro, possiamo veramente costruire una società inclusiva e che riconosca tutte le differenze e le diversità. Si stanno avvicinando le elezioni regionali e anche questa regione potrebbe andare in mano alla Lega, immagino sia un vostro timore. Certo, noi sicuramente non sosteniamo in particolare un partito. È vero che in primis siamo antifascisti e poi sicuramente pensiamo che sia un grande pericolo che comunque la destra e la Lega diciamo vinca le elezioni sia in regione, poi dopo poco ci sarà anche l'elezione qui a Bologna. Pure se diciamo abbiamo un'interlocuzione critica e autonoma con le istituzioni, sicuramente abbiamo una buona interlocuzione con le istituzioni. La maggioranza delle associazioni che stanno dentro il Comitato Pride sanno anche nel patto di collaborazione che è venuto in seguito a una coprogettualità rispetto a tutte le attività che poi noi facciamo da anni, insomma. Quindi c'è un'interlocuzione con le istituzioni e in questo caso a Bologna c'è il centro-sinistra, quindi questo è evidente. Però noi riteniamo di poter sicuramente essere autonomi, tanto che per esempio possiamo dire sulla regione, sulla legge regionale, che per esempio sappiamo benissimo che la legge regionale si è impantanata, anche perché alcuni esponenti del PD cattolici hanno tirato in ballo degli argomenti che non c'entrano niente con l'homo, lesbo, bi, trans negatività, che è una questione importante e cruciale e che non va e non deve essere impantanata, perché comunque c'è diciamo in gioco la possibilità che le nostre vite insomma possano rischiare, ecco, non solo da un punto di vista, come dire, della convivenza, ma anche proprio dell'oppressione e della discriminazione. Solo una domanda magari più tecnica sull'organizzazione del percorso del Pride. Partiremo dai Giardini Margherita, Piazzale Jacchia, che sta praticamente accanto alla Palazzina Liberty, dalla parte di Santo Stefano, dell'entrata del cancello di Santo Stefano. E lì sarà il concentramento, ci saranno dei banchetti delle associazioni, dei gazebo per il ristoro e naturalmente il palco. Il concentramento sarà alle 14:30, partiremo poi alle 16. I carri saranno 4. Ce ne saranno altri anche nella parte dello spezzone, insomma, che parte dopo di noi, che ci segue, insomma, ecco. Saremo lì comunque da prima delle 2:30, per cui chi arriva anche da fuori, insomma, ecco, dall'1:30 alle 2 siamo già là.